fanno la loro apparizione degli strumenti che sono fondamentali per il ciclismo, il cambio. Nel 1936 arriva il cambio prodotto da Tullio Campagnolo, che permette di cambiare stando in sella e senza bisogno di tendere la catena. Il ciclismo, durante il passaggio dalla prima alla seconda guerra, si modernizza anche perché è sempre meno sport individuale, individualistico, e sempre di più sport di squadra. La tensione cresce ancora con l'avvento di un giovanissimo di 22 anni. Per le sue ricorrenti affermazioni di fede lo chiamano Gino il Pio. Toscano di Ponte di Ema, di cognome fa Bartali. Ama la bicicletta forse più di qualunque altra cosa al mondo. Diventerà un mito per la sua forza, la sua classe, il suo caratteraccio di toscano amato dalle folle. Bartali è l'uomo forte del ciclismo italiano. Già nel 36 e subito dopo, nel 37, si impone al Giro d'Italia. È forte in salita, un combattente nato con un fisico eccezionale e un grandissimo seguito di pubblico. Corre per la Legnano e fa impazzire le folle. Nel 38 anche i francesi devono arrendersi al toscano, che conquista il suo primo Tour de France. Sono anni di grande esaltazione per Gino Bartali, che continua a vincere. Ma nel 40 improvvisamente si affaccia sulla ribalta nazionale un giovane di soli 20 anni. Corre anche lui nella Legnano, si chiama Fausto Coppi. In occasione della 27esima edizione del Giro, della tappa Firenze-Modena, che include la montagna dell'Abetone, tanto cara proprio a Bartali, quel ragazzo stacca tutto. Indossata la maglia rosa, la terrà per 10 tappe e ci arriverà fino a Milano. A sorpresa, Fausto Coppi vince il suo primo Giro d'Italia. E il 9 giugno del 40 è nato il più grande mito del ciclismo mondiale. Bartali e Coppi, secondo i giornali dell'epoca, sono campioni perché hanno respirato la prima giovinezza del clima mussoliniano e sono stati temprati nella palestra fascista della Raz, per la quale l'atleta è un soldato e un soldato è un vincitore. Così i quotidiani del 10 giugno 1940 riportano la notizia della vittoria a sorpresa del giovane campione al Giro d'Italia. Fausto Coppi, nel doppio segno della giovinezza e della tradizione, ha recato testimonianza della gagliardia e della serenità della patria in armi. Poche ore e in armi il paese ci sarà davvero. Benito Mussolini, dal balcone di Palazzo Venezia, annuncia che l'Italia è in guerra. Anche molti corridori del Giro hanno lasciato le loro maglie per vestire identica divisa, come Fausto Coppi, che passa dalla maglia rosa a quella in grigio verde. Di nuovo, negli anni del conflitto, il grande Giro a tappe si ferma. Prima dello stop aveva visto il giovane Coppi trionfare su Bartali. Ed anche sotto i bombardamenti il giovane Fausto non smette di stupire gli italiani. Nel novembre 42 trova il tempo di andare a Milano allo stadio Vigorelli e battere il record dell'ora senza preparazione né allenatore, così come fosse una scampagnata. Coppi finirà a combattere in Africa, dove verrà fatto prigioniero dagli alleati e riportato in patria al termine della guerra. Gino Bartali invece resterà in Italia e, grazie alla sua fama e il suo grande cuore, riuscirà ad aiutare tanti ebrei portando loro, sempre in bicicletta, si intende, documenti falsi forniti dal Vaticano. La Seconda Guerra Mondiale è finita. Gli italiani hanno perso tutto. La tassa di circolazione introdotta dal regime viene abolita. Le due ruote rappresentano un bene troppo prezioso per gli italiani. Così prezioso che Vittorio De Sica lo celebra nel film Ladri di biciclette, tratto dall'omonimo libro di Luigi Bartolini, uscito nel 1946. Nel 1946 gli italiani vanno alle urne, il paese sceglie la Repubblica, il re va in esilio. Ed è sempre nel 1946, tra le macerie di un'Italia devastata, che il Giro riparte. Nel 1946 l'organizzazione riesce a mettere in piedi questo Giro, che viene immediatamente battezzato come Giro della Rinascita. E finalmente, con il Giro della Rinascita, gli italiani possono tornare a tifare per i due campioni. La corsa la vince quel toscanaccio del Gino nazionale, al secolo Bartali, che si prende la rivincita proprio su Coppi. Nel mondo del ciclismo, gli anni del dopoguerra sono segnati dal dualismo tra Coppi e Bartali. Così, come il referendum tra Repubblica e Monarchia ha diviso in due il paese, anche nello sport ci si divide, alla ricerca di nuovi eroi che rappresentino un futuro migliore. La rivalità sportiva tra i due campioni accende subito le folle, anche perché questa volta i due non gareggiano nella stessa squadra. Bartali è rimasto fedele alla Legnano, Coppi invece è stato ingaggiato dalla Bianchi. Nel 1946 Fausto Coppi vince la Milano-Sanremo, la cosiddetta classicissima di primavera, 300 km di corsa verso il mare. Coppi parte in fuga a 140 km dall'arrivo e giunge al traguardo con ben 14 minuti di vantaggio. Bartali invece è quarto. Nel primo Giro d'Italia del dopoguerra, dopo un serrato duello con il rivale, a trionfare è proprio lui, il vecchio Gino. L'anno seguente, il 1948, le parti si invertono. A Gino la Milano-Sanremo, a Fausto la maglia rosa al Giro. L'antagonismo tra i due è fortissimo. Tra i due contendenti, Coppi e Bartali, si intromette quello che i giornali chiamano il terzo uomo, Fiorenzo Magni. Io ero ragazzina, avevo 14-15 anni, e la mia bicicletta me l'hanno comprata giusta quell'anno lì, ma una bicicletta da passeggio. Allora ho tolto i parafanghi, e il carter, e quando passavano, allora c'era Aldo Bini e altri campioni di Prato, andavo dietro, lì c'è una salita che si chiama Montepiano, di 10 km, molto ripida, e io vedevo, stavo con loro. E poi andavo a fare delle girate da solo, facevo 40-50 km con la bicicletta da passeggio. Allora a mio babbo allora mi ha comprato questa bicicletta. E le prime tre corse sono andato senza dire niente, perché non è come adesso. Prima fai campione e poi studi, molte famiglie dicono. Allora prima lavorare e poi facevi lo sportivo. Sportivo lo diventa, eppure è agguerrito. Magni vince tre giri d'Italia, nel 48, nel 51 e nel 55. Fa la tripletta al Giro delle Fiandre, che gli valgono, oltre che il soprannome di Leone delle Fiandre, anche il rispetto e l'ammirazione generale. Tra Coppi e Bartali c'è posto anche per Magni. Bartali e Coppi occupano le prime pagine di tutti i giornali dell'epoca. La loro rivalità dal piano sportivo si sposta su una dimensione politica e culturale. Se è vero che Bartali in quegli anni viene definito il De Gasperi del ciclismo, è anche vero che ci sono numerosi circoli di ex partigiani a lui votati che lo chiamano il Togliatti della strada. E il toscanaccio, proprio in quell'estate del 48, accontenterà entrambi regalandoci una storia dal sapore di leggenda. Di là dalle Alpi sta per iniziare il Tour de France. Gli emigranti italiani si riversano sulle strade di Francia per tifare i loro connazionali. La rivalità con i francesi è forte. In Sicilia, Antonio Pallante, un giovane studente di 24 anni, sale su un treno diretto a Roma. In testa ha un'idea fissa. Nella valigia una pistola e il Mein Kampf, il libro di Hitler. A Parigi la corsa ha inizio e Bobet, speranza del ciclismo francese, è maglia gialla. Bartali è in ritardo di oltre 3 minuti e i corrispondenti italiani già scrivono: ha 34 anni, è troppo vecchio per il tour. Il treno che arriva a Roma invece non ha nessun ritardo. Antonio Pallante prende alloggio e comincia a studiare i movimenti dal segretario del PC, Palmiro Togliatti. Il 13 luglio a Cannes Bartali ha 20 minuti da Bobet in maglia gialla e i Pirenei sono ormai alle spalle. Ha fiducia in sé Antonio Pallante, che alle 11.30 spara 4 colpi di pistola contro Palmiro Togliatti. 3 colpi lo centrano, al busto e alla testa. L'attentatore è già in manette, mentre il segretario del Partito Comunista Italiano viene operato d'urgenza. Poi, d'improvviso, i nostri corrispondenti fanno le valigie, devono rientrare. Non c'entra niente il vecchio Gino, in Italia sta scoppiando la rivoluzione. A tarda serata dall'Italia arriva una telefonata per Bartali. Dall'altra parte del filo c'è Alcide De Gasperi. Se poi vince per qua c'è una grande confusione. Sono così, c'è tanta confusione. Se puoi vinci, perché qua c'è una grande confusione. E Bartali risponde pedalando. Il giorno dopo Bobet in maglia gialla arriva 20 minuti dopo il vecchio Gino. In Italia la situazione si sta calmando, anche perché Togliatti, dall'ospedale, richiama tutti all'ordine. Sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo